GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Calciomercato e marcia d'avvicinamento alle Olimpiadi di Pechino, ma anche l'inseguimento alla maglia gialla del Tour de France nel menù sportivo di questi giorni. Il mercato del calcio aspetta le mosse dell'Inter, ormai a un passo dal romanista Mancini, ma che vede invece complicarsi l'obiettivo Lampard del centrocampista inglese che il Chelsea non sembra disposto a mollare. In casa Juventus invece è Trezeguet a chiedere giocatori in grado di fare la differenza. Se vogliamo provare a vincere qualcosa, sicuramente abbiamo bisogno di qualche acquisto importante. Intanto, dopo la conferma di Domenech come CT, il centravanti francese dà l'addio alla nazionale. Ho deciso così perché mi sembra giusto. Penso che i motivi siano chiari. Europeo, e dopo l'eliminazione catastrofica della Francia, il voler continuare con un allenatore che fino adesso non ha dimostrato di essere all'altezza di questa nazionale. La contestazione dei tifosi bergamaschi ha salutato il ritorno in nerazzurro di Christian Vieri, comunque pronto alla nuova avventura. Io ho ringraziato tantissime volte l'Atalanta. Tutto l'anno scorso, ogni intervista che facevo, l'ho sempre ringraziata e ho sempre detto che mi ha dato una grande mano. L'importante è star bene, poi i gol non sono mai stati un problema, quelli arriveranno. L'importante è star bene e giocare, insomma. E anche il calcio guarda le Olimpiadi con la nazionale olimpica che ha iniziato la preparazione per i giochi nel ritiro di Coverciano, il CT Casiraghi. Io sono molto molto contento e molto fiducioso di questa squadra perché credo che abbia giocatori di grandissimo talento, anche se sono giovani, ma sarà un'esperienza importantissima per loro e anche per me. Intanto, malgrado il no del Barcellona, Ronaldinho si è detto fiducioso di poter prendere parte alle Olimpiadi con la maglia del Brasile. Dagli europei di scherma di Kiev arrivano buone notizie per gli azzurri. Bronzo per le ragazze della Spada, oro per gli azzurri del Fioretto, che però a Pechino non ci saranno a causa delle decisioni tecniche della Federazione Internazionale. A Radio 24 il commissario tecnico Stefano Cerioni. Una doppietta come questa, mondiali ad aprile, europei ora, e fa sicuramente avere molto molta rabbia, rammarico per quello che saranno le Olimpiadi, per quello che poteva essere una medaglia d'oro in più per noi, per gli atleti, per la federazione e soprattutto per l'Italia. Baldini e Santos sicuramente sono le nostre due armi che porteremo a Pechino. Abbiamo delle ottime possibilità, chiaramente non è mai facile riuscire a vincere, però faremo di tutto per portare a casa qualche medaglia, possibilmente d'oro. Buone notizie anche dalle altre squadre azzurre. Nella pallavolo femminile le ragazze di Barbolini battono 3-2 la Cina campione olimpica nella prima gara delle finali del Grand Prix a Yokohama in Giappone. Oggi sfida col Brasile. Nella pallanuoto maschile l'Italia lotta contro la Croazia ma è superata per 8-7 ed eliminata così ai quarti degli europei di Malaga. Oggi in acqua le ragazze che in semifinale sfidano la Russia. E ora spazio al ciclismo e al Tour de France. Fa caldo e oggi nel massiccio centrale il caldo si farà sentire ancora di più. Il Tour, dopo solo 6 tappe, scala le prime montagne. Non sono monumenti del ciclismo, ma la tappa di oggi propone 2 colli di quarta categoria e 2 di seconda. L'arrivo in cima ad una stazione sciistica, Superbes, 11 km al 5% e l'ultimo chilometro e mezzo con pendenze medie del 10. Si parte da Goron con Mark Cavendish felice e sorridente per la vittoria di tappa di ieri e con il tedesco Stefan Schumacher in maglia gialla. Evans, Kirk, Valverde, i nostri Nibali e Cunego sperano questo pomeriggio di poter portare via al tedesco le insegne del primato. La tappa è adatta ai colpi di mano. Schumacher dovrà superarsi per restare al comando della corsa. Pier Augusto Stagi, GR24, Sole 24 Ore, a Goran. Per GR Sport è tutto, ancora una buona giornata da Dario Ricci.